Ci sono delle facilitazioni. Quando il fedele si trova in viaggio, può ridurre alla metà kosr ogni rito d'adorazione di 4 raka. Il rito di adorazione del Maghrib, però, essendo dispari, il numero delle raka non viene mai dimezzato. Quando il fedele si trova in viaggio, inoltre, gli è consentito di compiere non solo dimezzati, ma anche abbinati i riti dell'adorazione del Dhuhr, cioè del mezzogiorno, e dell'Asr, rito del pomeriggio, anticipando il rito dell'Asr al tempo del Dhuhr o posticipando il rito del Dhuhr nel tempo dell'Asr. La possibilità di abbinamento è data anche per il rito di Al-Maghrib e di Al-Isha, ma il rito di Al-Maghrib non viene accorciato. Anche in questo caso può essere eseguito il rito dell'adorazione della notte, accorciato, dopo il rito del Maghrib, oppure il rito del Maghrib abbinato a quello della notte nel tempo di adorazione della notte. Se il fedele è malato e si trova in condizioni fisiche che non gli permettono l'esecuzione del cerimoniale del rito di adorazione, cioè di assumere le posizioni e di compiere i gesti del rituale, è dispensato dall'osservanza della cinematica regolamentare del cerimoniale, ma deve eseguire in ogni caso il rito di adorazione con quei movimenti che gli sono possibili. Stando seduto sul letto, se non è in grado di stare seduto, deve eseguire l'adorazione con quei movimenti che gli sono possibili, stando coricato, anche soltanto con il movimento del corpo.